Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, adesso vi spiego tutto, almeno ci provo. Oggi giochiamo a poker. Allora, Giovanni Capuano è qui con me, adesso vi spiego tutto. Oggi è l'ultimo giorno di mercato, eh. Allora, è venerdì 30 di giugno. Ok, è il fatidico venerdì 30 di giugno. Ed è un venerdì molto speciale. Tu hai presente il venerdì prima del sabato che iniziano i saldi? Sì. Che ci sono i presaldi. È uguale. Adesso provo a spiegarvi quello che ho capito. C'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Eccolo, come va? Molto bene. Sai quando ti mandano i messaggini sul telefonino, ci sono i presaldi per quelli che hanno la tessera fedeltà, quelle cose lì. Oggi è così. Allora, in questo momento realizzo quanto sono fortunato che non mi è arrivato nessun messaggio. Aspetta, poi ti arrivano. Intanto c'è Paolo Corleone oggi nel turnover della regia, Edoardo Lavezzani la duplice veste di autore e redattore, perché De Luca non c'è. È il giorno in cui salutiamo per estate Pierluigi Pardo, giusto Piano? Sì, perché ma poi ci sentiamo ogni tanto. Sì, mangiamo una gamba. Poi, sì, poi inizia il campionato. Sì, chiamatemi anche per provare ogni tanto il gommone. L'ebbrezza della linea. Esatto. Ci sono gli ascoltatori 80024 0024. Allora, ti spiego come è andata la mattina, Piera. Perché tu non lo sai, intanto ci possono vedere, ed è oggi è utile, particolarmente sulla pagina di Facebook di tutti i convocati, perché questa mattina arriva il professor Capuano e mi presenta quattro carte. Sì. Allora io le faccio vedere per chi vede: il precoce ed è Fassone. Sì. Il furbo ed è Monci. Ok. Sì. E vende tutti, sì. Poi il mago ed è Sabatini. Sì. E l'invisibile che è Mister X. Mi dice scegli, secondo te quale ho scelto? Beh, Marotta Paradici direi. No, no, di queste quattro carte quale ho scelto? Ah, quale hai scelto? Cioè di chi sta facendo meglio? No. Di che carta ti tieni dopo il primo giro di carte? Che carta ti tieni dopo il primo giro di carte? Io ovviamente, che finisce oggi. Per te che mi conosci un po', ho scelto l'invisibile perché sono curioso. È anche un po' folle. Certo. Allora, adesso, fatto questo preambolo. Sì, dai, gioco complicatissimo, bello, bello perché è bello. Bello perché è bello, adesso Capuano te lo spiega. Va bene. No, oggi siamo al primo giro di mazzo di carte, e quindi decidiamo che carta ci teniamo, perché il furbo, che è quello che ha detto che non vendeva nessuno, li sta vendendo tutti, e se non li vende li mette fuori rosa. Ed è Monci. Il precoce, quello che ha fatto tutto in fretta, e c'è nella vita di tutti il precoce, quello ha fatto 100 milioni in un mese, e adesso vediamo che cosa fa. Il mago in 30 ore ha fatto 30 milioni, che non è male, Pier. No. Poi c'è l'invisibile, che potrebbe essere quello che hai detto tu, ma potrebbe anche essere quell'altro che è appena tornato e da lunedì ha detto che fa delle cose. Chi è? Chi lo sa? Vabbè. Comunque, Chi ti prendi? Dopo il primo giro di carte. Ma io non ho capito lo scopo del gioco, però mi prendo Ti prendi il mago, ma anch'io mi prendo il mago. No, come ha fatto a fare 30 milioni in 30 ore? Beh, ha fatto, se nessuno ti offenda, ha venduto bene un po' di cose. Avanzi è offensivo, in realtà ci sono esuberi, diciamo. No, ci sono state molto diverse, però insomma è riuscito a monetizzare bene il mercato, diciamo, di quelli non esattamente prioritari, ma Sabatini è uno che ha venduto Bradley a suo tempo a 8 milioni e mezzo in America, ha anche questa capacità proprio da pokerista. Detto questo, adesso comincia il bello per anche la faccia da pokerista. Sì, poi voglio dire. Posso dire una cosa? Io faccio mia la definizione che ha scritto, credo, Biasin, l'amico Biasin su Twitter, su Sabatini, cioè ha ribaltato il concetto per cui tante briciole insieme non fanno una torta. Esatto. E invece non è vero. sembrava che Perisic fosse il punto di partenza, no? Di primo quotidiano, perché il mercato ovviamente non è finito, ma sembrava che l'Inter senza una cessione forte non riuscisse a cavarcela. Poi detto questo, c'è una realtà che è quella burocratica, per cui poi il fair play finanziario, i parametri, le norme, il 30 giugno, tutto quello che volete. Poi c'è una realtà sostanziale, cioè ad esempio la Roma, che forse ha più bisogno dell'Inter, non lo so, lo scopriremo solo vivendo, ha venduto bene, ha venduto proprio molto bene, e ha avuto adesso questo impiccio di Manolas che sicuramente non ha semplificato le cose, ma insomma Salah e Paredes sono... Il furbo Monchi ha perso anche il portiere, No, tra l'altro Manolas, sì, il portiere l'ha perso, ma insomma quasi per scelta, mi sento di poter dire, credo, cioè, che abbia venduto anche quasi per scelta, perché viene il dubbio, se ti ricordi le parole di Capello di un paio di mesi fa, hanno chiamato uno dalla Spagna perché era l'unico che aveva il coraggio di dire in faccia a Totti che era finita. Forse era anche l'unico che poteva arrivare e ribaltare la Roma così. Io non fortunato con Karsdorp, che ha subito un problema. Sì, ma lo sapevano quello. Non lo aiuterà nel RFI, ma qua sai, l'ambiente mediatico non è semplicissimo. Però certamente, ma Monchi è un fenomeno. È chiaro che è un uomo di prospettiva, è un uomo di costruzione su questo periodo, un uomo che ha diretto mirabilmente il Siviglia. Avrà un piano nella testa, avrà certamente un piano nella testa. Noi magari non lo conosciamo, per il momento rimaniamo alla fredda cronaca, no, che ci dice, sarà, vabbè, ormai è storia. Per quanto riguarda la questione Paredes-Manolas, Paredes, che era più incerto, alla fine è andato. 25 milioni, mi sembrava molto buono, no? Direi di sì. E Manolas spintaneamente andrà. Manolas, dicono, va bene, non è accettato, vai fuori rosa. Poi lui alla Roma guadagna 1.900.000 euro, glielo privano 5, fossero rubli, marchi, sterline, dollari, quello che vuoi, ma mi sembra un salto non da poco. Io sono convinto che alla fine Manolas andrà via. Perché quando un giocatore viene messo in vendita così, viene venduto di fatto, viene ceduto, poi diventa difficile tornare indietro. Tra Manolas e Nainggolan c'è una differenza enorme, che non è soltanto tecnica, anche perché poi in realtà Manolas è forte e serve alla Roma, quindi poi il sacrificio tecnico sarebbe quasi altrettanto pesante per la Roma, anzi col mercato che sta facendo la Roma in mezzo al campo forse è quasi più utile Manolas, ma dal punto di vista invece del rapporto con l'ambiente, con i dirigenti, con i tifosi, con la squadra, le cose sono molto diverse. Cioè, Manolas ha avuto parecchi mal di pancia e alcuni li ha avuti anche all'interno del gruppo, non è esattamente un leader della squadra, ma Nainggolan lo è. Certo, quindi, questo è chiaro, questo è evidente. Poi certo, se arrivano 60 milioni di offerte, 60 milioni per Nainggolan. Ma tu che frequenti le migliori sale poker della capitale, Pier, ci credi al mago che è lui a offrire 60 milioni al furbo per un Nainggolan? Io no. Cioè, tradotto, da ieri sera gira fortissima questa Sabatini voce. Sabatini offre 60 alla Roma per Nainggolan. Dipende quanto budget all'Inter, però che Nainggolan piace, a parte che non è che piace solo a Spalletti o solo all'Inter, piace a tutti Nainggolan. Nainggolan lo voleva in tempi non sospetti Conte alla Juve, e forse è stato uno dei motivi anche del suo malumore. Quindi ci credo, nel senso che dipende quanto budget all'Inter adesso, dal primo luglio, no? Girata questa pagina di quest'anno fiscale, del fiscal year, poi insomma l'Inter dà la sensazione a livello di proprietà di avere le risorse quasi infinite, e quindi 60 milioni per Nainggolan è una cifra che ci sta, insomma è ben pagato, ma allora vale il discorso. Ricordo i numeri 800 24 00 24 per intervenire in questo discorso, poi ne faremo anche degli altri. Il mercato dell'Inter comincia adesso, non è chiarissimo quali siano gli indirizzi, però vale il discorso che abbiamo fatto un mese fa quando ci siamo stupiti del saccheggio di Roma, dovesse essere così, del saccheggio di Roma, Roma e Lazio, con le milanesi che andavano lì e depredavano tutto. Traffico, poi torniamo. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti convocati. Allora, poi su tutti questi temi che abbiamo tratteggiato torniamo naturalmente. 800240024 per chi vuole immischiarsi telefonicamente, ed è sempre un piacere. 349-238-6666 per i messaggi, ma questo lo sapete a memoria. Allora, ieri non abbiamo agganciato Pardo, che oggi salutiamo per l'estate, lo ricordo. Giovanni Capuano è qui con me in studio. Ne approfitto anche per dire che domenica ci siamo dalle 5 alle 7. Dalle 17-19, poi anche domenica poi andiamo un po' in vacanza. Beh, per il tempo che serve prima che ricominci agosto. Il campionato. Allora, fate tutte queste premesse di rito, Maurizio Crosetti, con cui andrò in vacanza in Galles. No? Eccoci qua. Tutto a posto, ho fatto il tagliando alla moto, si parte. Fantastico. Volevo dirti solo di non dimenticare la tessera a punti, quella del carburante. Non ce l'ho mai avuta. Passate da Cardiff? Ha organizzato tutto il professor Crosetti. Abiteremo a Cardiff. Infatti ci trasferiamo, io porto tutto, Maurizio, che poi non è che... Però rimaniamo, ascolta, ho pensato di rimanere a Cardiff solo 45 minuti. Perché di solito si sta lì solo 45 minuti e poi si scompare. poi si va in un luogo chiuso, si discute. e poi andiamo nello spogliatoio che ho delle cose da dirti. No, va bene, io guarda, ti seguo, io mi affido a te, Maurizio. Cioè, la mia estate è affidata alle tue sapienti mani. Volevo fare un passo indietro e tornare all'argomento di ieri, perché volevo sentire quella di Pardo e di Crosetti. Argomento di ieri, che è: metti un giorno dinanzi alla commissione antimafia insieme De Laurentiis e Lotito ci abbiamo sorriso un po' sopra prima, ovviamente, poi di passare a un altro argomento ben più serio che poi vi dico. Ragazzi. Beh, io credo che ci sia una nuova edizione del vagone letto, del vagone letto di Totò e del Cavalier Trombetta. Ma infatti con quello. Questi due che hai detto siamo oltre il Cavalier Trombetta in bocca. Ma hai sentito, no? Cosa? Che discorso. No, ma sicuramente, però dico anche che almeno per quanto riguarda lo dito bisogna cioè riconoscere la parte, diciamo, quella sul coraggio nel affrontare certi temi, credo sia indiscutibile, cioè che lo dito che ripeto, può avere aspetti simpatici, meno simpatici, però abbia avuto, soprattutto nella prima parte, soprattutto quando è arrivato, insomma, il coraggio, perché poi quando arrivano le minacce al telefono non è semplice. Letto l'intervista, lo dico, devo dire la verità, credo che poi in effetti la situazione sia cambiata, sia migliorata. Insomma, frequento lo Stadio Olimpico, mi pare che insomma ci sono ogni tanto delle cose inquietanti, però il clima complessivamente secondo gli italiani è migliorato rispetto al passato. Sì, ha detto che riceve ancora 3-4 minacce di morte al telefono al giorno, però probabilmente prima erano di più. In ogni caso bisogna avere un atteggiamento costruttivo, cioè io sono di quelli che pensa che comunque si debba sempre cercare di coinvolgere, si debba sempre cercare di regolamentare, di responsabilizzare i tifosi, responsabilizzare le curve, perché insomma, è chiaro che nelle curve l'abbiamo visto anche comunque. No, ma abbiamo perché aspettiamo la conclusione di tutti i vari. Aspetta, però il punto del discorso è quello serio, è questo. Al di là del fatto che De Laurentiis ha detto: arrivavo da Los Angeles dove stavo girando un film con Gwyneth Paltrow. Ho pensato che potevo fermarmi qui per cercare di cambiare tutto. E vado a Castellammare di Stabia dove mi sputano in faccia. Era in Serie C, non capivo bene. Però il punto è un altro che mi ha fatto riflettere. È intervenuto sull'argomento ieri il nostro amico Antonio Giordano del Corriere dello Sport, che ha assistito ovviamente a quest'udienza, e la sua sensazione era che De Laurentiis e Lotito parlassero di fronte a delle persone che non sapevano bene di che cosa si stesse parlando. L'argomento è quello delle connessioni tra club e tifoserie organizzate. Non solo, perché alla fine Lotito e De Laurentiis possono anche avere un aspetto macchiettistico, ha ragione Maurizio, però Lotito e De Laurentiis dicono la stessa cosa che dice Agnelli, e cioè che i club non possono fare nulla, che gli stati sono in mano alle curve e che ci sono connessioni e responsabilità che sono anche istituzionali. Certo, ma mettiamo da parte quando il pallone. Richiameranno il capo della polizia, ragazzi, che ci spiegherà alcune cose. Secondo me il quadro sarà un po' più chiaro. Se mettiamo se lo da parte fare. Lo sport, lasciamo stare il pallone, lasciamo stare che è sport. Si tratta di parlare, Maurizio, con delle persone che sono rappresentano lo Stato italiano e dovrebbero avere cognizione di causa. Questi, ma ha detto Giordano, davano la sensazione di non sapere di cosa si stesse parlando. Beh, se la sensazione è giusta, peggio mi sento, nel senso che poi questo è un problema di ordine pubblico, un problema antico che riguarda la criminalità organizzata e tra l'altro sempre più organizzata, no? Se una volta certe bande erano di criminali e basta, adesso sono mafie. E c'è di mezzo la droga, insomma tutte le cose che purtroppo sappiamo e che sono in qualche caso cadute addosso alle società un po' per insipienza, un po' per codardia e un po' per oggettiva debolezza, sono state un po' complici e un po' vittime, no? Queste società lo sappiamo e il caso emerso quest'anno e che l'antimafia se ne stia occupando, speriamo sapendo di cosa parla, può essere un primo passo. Certo che se però guardano i presidenti come la mucca quando passa il treno, e allora forse non ci muoviamo. Il problema è quello. Secondo me è veramente l'elemento chiave. È bravo, è chiaro che è l'elemento chiave. Dietro, secondo me è una responsabilità di noi giornalisti e tutta l'opinione pubblica, nel senso che l'abbiamo capito con chiarezza, ricordate anche il famoso discorso di De Santis, ci sono due piani paralleli. Ci può essere un piano in cui uno dice, oddio, il dirigente tal da Italia ha parlato con quel tifoso ha un rapporto con... Allora quel presidente o quel dirigente è mafioso, faccio per dire, sto proprio facendo un esempio di scuola. E certamente se questa cosa qui viene proposta all'opinione pubblica, uno fa, no, fa la proprietà transitiva, il sillogismo e dice, ah, oddio, hai parlato con un mafioso, hai parlato con uno che ha dei legami, certamente non è piacevole. Poi c'è un altro elemento, un altro piano, che spesso i protagonisti ci hanno raccontato, anche dei responsabili delle istituzioni ci hanno raccontato, che è la necessità di trovare una mediazione, la necessità in certe circostanze trovare il male minore. Il discorso è questo. Mentre un'ultim'ora dice, a proposito di quanto parlavamo prima, Rudiger verso il Chelsea, a proposito Rudiger verso il Chelsea, dice un noi la lasciamo lì, chi preferite tra il football mago in corso. Precoce e l'invisibile. No, io vorrei chiudere questo discorso, sarà colpa di noi giornalisti, però è il segreto di Arlecchino, se non di Pulcinella, quanto sta succedendo. Quindi si tratta di provare ad estirpare un fenomeno che esiste, che non è colpa di noi giornalisti, ma che tutti conoscono. Voglio dirti che il voyeurismo, il titolo ad effetto, secondo me non aiuta la comprensione. No. Allora bisogna ovviamente fidarsi dei magistrati, che fanno un lavoro delicatissimo, importantissimo. Perfetto. E in molti casi anche molto rischioso. Quindi quello è il punto di partenza. Bisogna pensare che abbiano invece la percezione perfetta di chi riesce a capire, di chi riesce a analizzare. E poi bisogna aspettare per capire, perché una conversazione con una persona che magari ha un certo tipo di rapporto fatta magari perché dire che quel dirigente lì stia, ma non è il singolo caso, è il fenomeno, secondo me. È il fenomeno di questa di questa rete che deve essere sbrogliata da chi ne ha da chi ne ha la competenza. L'obiettivo è quello non è il singolo caso, il titolo ad effetto. Maurizio, uscirei un attimo da questo discorso, anche perché ti devo salutare tra poco. Sì. E andrei su qualcosa di un po' più leggero il 30 di giugno. Allora, ci aspettiamo. Donnarumma, basta. Pietà. Però in parte non è che ci sia andato lontano. Tutti ci aspettavamo una Under 21 mai così bella, così seguita anche televisivamente, con dei dati d'ascolto da nazionale maggiore, con il trofeo in mano, mentre domani se lo contendono Germania e la Spagna, guarda caso. E se le voci di mercato, come tutti hanno detto, da Di Biagio in giù fino all'ultimo, non hanno influito su questa nazionale Under 21, allora c'è da preoccuparsi. Ma sì, si sa che hanno influito, si sa che abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, si sa che la Spagna è più forte, si sa che se non ci fossero tutte queste sirene probabilmente Odisseo e i suoi compagni, anche senza i tappi di cera nelle orecchie potrebbero navigare più sereni, però viva Dio, diciamo anche che questa rimane una bellissima generazione di calciatori che comunque rappresenta in parte, non del tutto, ma insomma in parte l'ossatura della nazionale del futuro. Appunto. Diciamo che tra un anno ci sono i mondiali, che il talento non bisogna rovinarlo, ma c'è, non è che è sparito. È certo che Donnarumma ha turbato o qualche altra valutazione ipertrofica può far perdere la testa, no? Il senso delle proporzioni, ma non può far perdere il talento su cui dobbiamo lavorare. Resto dell'idea che sia una delle migliori generazioni da molti anni a questa parte. Lavoriamoci, dai. E anche che in fondo, perdonatemi, abbia perso contro una squadra superiore dove gioca un fuori quota. Cioè, perché Saul non è un giocatore da under 21, lo è in termini anagrafici, perché le regole c'erano anche nell'Italia, giocatori di 23 anni, ma Saul è un uomo che ha deciso una semifinale di Champions, ha fatto due finali di Champions, cioè stiamo parlando di un giocatore che è già oltre quel livello lì. Ne parla ampiamente già la Bibbia, no? Quindi voglio dire, è chiaro che è un giocatore di grande spessore. Cioè, tu dici, ha esperienze, tra l'altro. Accidenti, è un patriarca, che 24. Ciao Maurizio, ciao Cross, che meraviglia. Stai lì, eh? Ragazzi, però se il furbo vende anche Rudiger, vi ricordate che ci avevano detto Rudiger è incedibile? Rudiger è se il furbo vende anche Rudiger, io cambio scelta, mi prendo il furbo e lascio il mago. Manolas, quindi Paredes è andato, Salah è andato, Manolas. Il furbo? Lì. Sì. Il furbo è furbo, però se esagera con la furbizia poi diventa un po' più tonto che furbo, cioè non può esagerare. No, poi più che tonto sono cavoli amari. No, ma lui secondo me ha soluzioni di tutti i tipi, secondo me è già qualcosa a vedere, a caso però è chiaro che se si esagera nello sventrare una squadra, poi ogni anno si riparte da zero. Perché invece il Napoli lo sta seguendo, perché il Napoli sta consolidando. No, ma se neanche anche Rudiger sono carciofi amari, verdura molto popolare a Roma anche per Monchi. Ci fermiamo e ripigliamo proprio questo discorso del mercato subito dopo la borsa. Che volete? Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocatissimi. 800240024, numero verde. Allora, 30 giugno andiamo parte in gommone. Giovanni Capuano invece rimane qui, così come rimaremo qui. Ti leggo due messaggi velocissimi che ci hanno scritto sotto la diretta video di Facebook. C'è un amico, che Stefano Sarti, che ci fa i complimenti perché non sbagliamo un congiuntivo, fa un lunghissimo discorso, ma alla fine ci vuole chiedere, carissimo Pier, se il Toro si prende Simeone. Non lo so, lui ha fatto tutto un discorso lunghissimo, ma vuole sapere quella roba lì. Ho incontrato Antonio Comi in fila ai taxi alla stazione centrale, ma abbiamo parlato solo di Filadelfia, quindi un gran bel argomento. Ma comunque Carlo si prenderebbe Fassone. Un altro amico che adesso non trovo è disperato, tifoso della Juve, perché tutti i giornali danno De Sciglio a un passo della Juve. Secondo me non è un brutto anzi, però, io ribadisco quanto ho detto ieri, poi Ordine non era del tutto d'accordo con me. Se De Sciglio va alla Juventus, rivediamo il giocatore che avevamo visto prima, che abbiamo visto anche in nazionale. Di prima, ascoltatore di tutti i convocati, che è tifoso della Juve e che era preoccupato, in qualche modo mi ricorda quello che dice sempre Zampini, no? Che d'estate c'è questa fetta ai tifosi della Juve, che semplicemente perché non si parla magari di grandi acquisti, poi in questo caso anche sì, ma secondo me ce n'è anche meno bisogno. Certo. La verità è che giustamente si sottolinea la crescita del Napoli, che ha blindato i pezzi forti, il mercato squillante del Milan, Inter e Roma che stanno facendo le grandi pulizie di primavera, di estate, per poter tornare a comprare, però ecco, insomma, la Juve. No, ma allora rimane, allora, sempre, allora rimane sempre un gradino avanti. Facciamo così, poi, allora Pier, allora ti propongo, ascoltiamo insieme Andrea da Piacenza che ha chiamato, e poi torniamo su tutti questi argomenti con un signore che ne sa che molto. Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Dimmi. Io volevo dire una cosa velocissima, ma se, quando mi dicono che Raiola fa l'interesse del giocatore, deve fare l'interesse del giocatore e non dei tifosi del Milan, ma siamo sicuri che questo sia l'interesse del giocatore? Perché l'interesse di Pinocchio non è andare al paese dei balocchi. Un ragazzo di 18 anni è ovvio che poi non renda come deve anche all'europeo se viene sottoposto a una pressione del genere. E non è quel milione in più che gli cambierà la vita da grande, ragazzi. Cioè, c'è gente che firmerebbe per prendere 10.000 euro al mese. Andrea, l'interesse del giocatore è la mandare la gente. Andrea, guarda, io questo è proprio esattamente il mio ragionamento. Io, cioè, non sempre l'aspetto prettamente monetario, che pure è importante nella vita, non siamo ipocriti, perché voglio dire, guadagnare 10 è meglio che guadagnare 5, non c'è discussione. A ogni livello, anche se i soldi uno ce li ha, poi noi non possiamo giudicare da fuori, però. Appunto, il tuo punto di vista mi sembra giusto, cioè secondo me non era la strada più semplice, la strada, il punto di equilibrio fra una crescita economica importante e una crescita tecnica era rimanere al Milan, lo diciamo da mesi, Pierluigi. Intanto Manolasa ha rifiutato 5 milioni e ne guadagna 1,9. Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Come va? Bene, chiede pardon. Chiede pardon. Allora Giovanni Capuano, dammi una mano che ho perso il filo del mercato. Noi da Stefano Agresti, che di mercato sa tutto, vogliamo sapere se davvero la Roma si sta vendendo Rudiger. Glielo chiediamo così, senza troppi giri di parole. È perché è un'ultima ora. Perché stanno trattando. È da un quarto d'ora che ci interroghiamo su questa cosa. Ma guarda, diciamo che è una situazione di cui si parla nelle ultime ore, che stiamo cercando negli ultimi minuti, come hai detto giustamente, che stiamo cercando di verificare, perché a quello che risultava fino a stamani, il difensore in partenza della Roma era Manolas, anzi ci sono state anche delle parole abbastanza decise da parte del direttore sportivo Monchi su Rudiger. Ha detto: Rudiger garantisco che rimane qua. Certo che se lo dovesse cedere poi dovrebbe spiegare perché ha cambiato completamente idea e completamente strategia. Ripeto, a stamani ci sembrava un'ipotesi in contrasto con quelle che erano le informazioni che arrivavano dalla Roma. Questa improvvisa apertura, e poi vediamo come va a finire, significa che la Roma non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi che deve raggiungere entro la mezzanotte di oggi per essere a posto con l'UEFA? Ma non credo. Tutti noi pensavamo che non fosse, però se si chiude la porta a Manolas e in 4-4-8 torna sul mercato Rudiger, qualche domanda viene da fare. Certo. No, è giusto, la domanda è legittima. A quello che sapevamo, la Roma sarebbe dovuta rientrare di 30 milioni di euro entro il 30 giugno, e per ora siamo già a 70, perché i 45 di Salah. Stefano, ma poi Marco Benignazzo l'altro giorno ce l'ha spiegato chiaramente, e quindi non è questo il punto e quindi, del discorso. E quindi perché Rudiger va sul mercato in 4-4-8. È questo che voglio capire, e voglio chiedere a Pierluigi Pardo. Chi è il mandante del fumo? Voglio chiedere a Pierluigi Pardo una cosa: che succede a Roma se va via Salava, esigenze di bilancio, parte Paredes, conveniva Manolas, deve andare Rudiger, è sul mercato, poi magari arriva il mago Sabatini, ne mette 60 per Nainggolan e va via anche lui. A quel punto tu mi devi dire non andranno via, credo, tutti e tre, Nainggolan, Rudiger e Manolas. Penso che al massimo ne vada via un altro, però hai ragione, cioè è abbastanza sorprendente, anche se in qualche modo lo si sapeva, e credo che i tifosi siano abbastanza preparati da maggio a un mercato. Si sapeva che sarebbe stato un sacrificio barra due. Certo, se comincia a diventare tre o quattro diventa pesante, perché poi, ripeto, Monchi è un fenomeno, sicuramente deve andare a trovare giocatori nuovi, alternativi, ed è uno che, se gli dai un po' di tempo, un po' alla Sabatini, è un po' la stessa scuola, nel senso che è un grande conoscitore di talenti, grande talent scout, però insomma la vera domanda è: la Roma avrà mai la forza economica per diventare stabilmente una società capace di, lo chiedo ad Agresti, una società capace di di consolidarsi, come sta facendo il Napoli. Poi non è detto che il Napoli vinca il campionato l'anno prossimo, penso che ad oggi è ancora favorita nettamente la Juve, però insomma della certo, Valentina alcune cose che sta dimostrando il discorso è chiaro, ma la politica che la Roma ha fatto o ha provato a fare negli ultimi anni, mi pare, Stefano. Ma io alla domanda di Pierluigi mi viene da rispondere no, nel senso che quando una società si trova sempre a dover cedere i pezzi migliori o alcuni tra i pezzi migliori, diventa difficile pensare di crescere. Tu sottolineavi giustamente la differenza tra il mercato della Roma e quello del Napoli. È una differenza fondamentale. Il Napoli ha prolungato e rinnovato i contratti ai giocatori che avevano delle richieste importanti, penso a Insigne, penso a Mertens. La Roma invece li sta cedendo, ha ceduto Salah, ha ceduto Paredes, avrebbe voluto cedere Manolas, in pratica lo aveva ceduto, per cui è una strategia completamente differente. Il Napoli si consolida alle spalle della Juve come una candidata autorevole a lottare, in partenza chiaramente dietro ai bianconeri, la Roma rischia di perdere qualche posizione perché le uscite sono molto importanti e le entrate al momento non sembrano adeguate. Al momento il Napoli è secondo per abbandono. Al momento è 30 giugno ore 14:42. Sono molto curioso, non credo che Monchi lascia la Spagna per venire qua a rovinarsi l'immagine e fare il liquidatore, no? Quindi io sono abbastanza convinto, in qualcosa già si è visto con Alon, Carlton, insomma sono abbastanza convinto che Monchi poi dal 1 luglio, che poi è domani, comincerà a comprare e comprerà anche giocatori importanti. Sì, però attenzione che c'è anche l'Inter, c'è anche l'Inter. Sì, sì. C'è anche l'Inter, perché da domani comincerà a comprare anche l'Inter, no Stefano? Beh sì, ci aspettiamo l'Inter come protagonista del mercato da domani in poi, perché sistemata la questione del fair play finanziario l'Inter dovrebbe essere un po' quello che è stato il Milan in queste prime settimane di mercato, dovrebbe essere la società che opera con maggiore efficacia e anche velocemente, perché poi Spalletti dovrà lavorare con i calciatori per preparare la squadra già in fase appunto del ritiro, per cui mi aspetto un Inter da domani grande protagonista, anche se poi bisognerà vedere anche altre questioni che l'Inter ha aperte, per esempio la vicenda Perisic, la sensazione è che lo vogliano confermare, però lui un po' vacilla. Quando stai 2 mesi sul mercato poi è difficile tornare indietro. Beh, però un attimo. Allora, Stefano Agresti, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo presto e abbondantemente. Ciao. La stagione ciao, è appena... ciao, grazie a tutti. Grazie ciao. A Stefano Agresti. Ci spieghi l'arcano, chi è l'invisibile? Poi salutiamo Pardo. Secondo me l'invisibile è De Laurentiis. È De Laurentiis? Sì, perché i tifosi del Napoli ce l'hanno un po' su ancora, tanto per cambiare, con De Laurentiis. In realtà proprio la vicenda della Roma dice che alla fine il più grande investimento, il più grande regalo che De Laurentiis sta facendo al Napoli oggi è quello di stare fermo, trasparente, invisibile. Beh, mega fermo, E di tenersi, le carte che ha in mano. Ma di tenersi, sai, ci sono quelli che a poker continuano a cambiare, cercano, inseguono. E lui si è tenuto il primo giro che gli ha dato. Ti ricordi Guzzanti quando faceva Prodi? Fermo, sono con un semaforo, non mi muovo, e gli altri passano. Grande Guzzanti. Senti, un saluto. Senti. Sì. No, io ti volevo salutare. Bene, in maniera particolare. Ho chiesto un mese di ferie, ma non è che voglio richiamarmi. No, 800 24 0024, così verifichiamo se il telefono capire se il telefono in vacanza migliora, perché a quel punto se dovesse migliorare in vacanza vuol dire che c'è qualcosa sotto. No, ufficio di un mese di vacanza, va bene. Ti mando un bacio, un abbraccio. Se incontri De Laurentiis chiedigli se è invisibile. Poi facci sapere. Ciao Piero. Diciamo che il mio comune non è esatto, che poi non è neanche mio, non è esattamente quello che Il tuo canotto, Stai con Allegri. Lo profile. Ma vai in comune con Allegri, col barchino. Posso rispondere a un amico che chiede la campagna abbonamenti del Milan, che non è ancora aperta, unica squadra tra le grandi, apre poco prima di metà luglio e vi possiamo dare una primizia. Cioè? I prezzi sono gli stessi dell'anno scorso. Ci mancherebbe altro. Ciao Pier. Ciao ragazzi. Ciao. Allora salutiamo Pierluigi Pardo. Poi, dopo, adesso vai in onda al traffico. Poi se c'è qualche ascoltatore che vuole infilarsi, ovviamente lo prendiamo. Parleremo, domani parte il tour. E volete non parlare del Tour de France, che la Grand Boucle che parte, lo faremo. E dopo il GR, ovviamente, già ho visto, ho intravisto Roberto Ungaro, Racing Team, come eccolo lì, Racing Team, come ogni venerdì. E state con noi perché abbiamo grandi ospiti, un sacco di cose da dirvi con Roberto Ungaro e Leo Turrini. A dopo. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Prima della gran bucla di Racing Team, Vincenzo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dica. Io volevo intervenire in merito al mercato della Juve. Sì, non abbiamo parlato in effetti. In effetti, sì, effettivamente. E niente, perché diciamo se ne parla anche forse troppo per diciamo rimporsi sugli esterni, ma non credo che non se ne stia parlando per quanto concerne diciamo la mediana a centrocampo, che credo sia stato uno dei problemi della finale di Cardi. Sì, è stato uno dei problemi. È stato uno dei problemi quasi cronici della Juventus, l'assenza di un centrocampista, no, Giovanni? Intanto dovrebbe arrivare Danilo per coprire l'imprevisto. Danilo copre l'esterno destro. Ok, di Dani Alves. De Sciglio farà il backup. Chiede un centrocampista, ma tu l'hai detto ne manca uno, e il 4-2-3-1 alla fine aveva anche risolto questo problema, perché di fatto aveva scalato uno a turno tra Pjanic, Khedira e Marchisio, ma soprattutto Marchisio nel ruolo di prima riserva, e questo aveva leggermente allungato la rosa della Juve. Poi vai a Cardiff e ti rendi conto che a metà campo sarebbe servito qualcosa di più, ma io convinto che arriverà. Però oggi la vera emergenza della Juventus è a sinistra, e cioè il tentativo della Juve di convincere Alessandro a restare. Io sono convinto che Alessandro non si muove. Io credo che Alessandro voglia andare a tutti i costi, non sia semplicemente una questione economica. Penso però che la Juventus oggi abbia la forza e il dovere di trattenere un giocatore anche non contentissimo. Non hai possibilità di trovarne uno che lo sostituisca. E a sinistra io sul mercato non ne vedo tanti che siano imbarcabili e che ti diano le stesse garanzie. Allora, più facile parta Bonucci che Alessandro. Si parla di tutti e due al Chelsea, in un modo o nell'altro Alessandro lo si convince, perché è uno di quei giocatori che in questo momento non riesce a sostituire, e poi servirà il benedetto centrocampista, la cui mancanza è cronica al di là del modulo. Stiamo parlando con, tra l'altro c'è in linea uno juventino, oltre che profondo conoscitore del ciclismo, e che seguirà anche per noi il Tour de France. Ciao Pieragusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ti abbiamo fatto torcere a budella questi discorsi sulla Juve, su Alessandro che vuole andare via, spero di no. Un pochino. Stai tranquillo, siamo appena all'inizio, Pieragusto. Siamo appena all'inizio. Così come domani saremo all'inizio della Gran Bucla, nella quale abbiamo una voce di Aru. A proposito, presentiamo lui ai nostri di partenza. È passato dei mesi difficili, sinceramente non mi aspettavo di andare così forte. Da quando ho riniziato a correre, sto correndo con una maglia speciale, che questa è la maglia di scarpa che ce la siamo scambiate a Sierra Nevada, e dopo la vittoria all'italiano ci tengo a darla alla famiglia. La vita è fatta di momenti belli ma tanti momenti brutti, è importante rialzarsi sempre. Purtroppo questi mesi non sono stati facili, ma sto rivedendo la luce. E di questo abbiamo parlato, abbiamo reso onore a Daru l'altro giorno, ha vinto il campionato italiano con la maglia di Scarpone, è stato bellissimo. Si presenta ai nastri di partenza del Tour de France tra gli underdog, certamente non tra i favoriti. C'è Pieragusto Froome che parte per il poker, per il quarto tour vinto, ma dice che il favorito è Richie Porte, come la mettiamo? Ma gioca, è giusto, anche per togliere un po' di pressione, anche perché Chris Froome quest'anno per la prima volta si presenta al via della Gran Bucle senza aver vinto corse, quindi senza aver vinto il delfinato, che generalmente era la sua corsa, la corsa di preparazione, l'ultimo esame prima della grande sfida. è andato non tanto bene, molti lo vedono in fase calante, io lo vedo semplicemente invece molto concentrato per seguire questo fantastico poker, sorretto tra l'altro da una squadra stratosferica che se andrà come ci si immagina potrebbe essere veramente una dannazione per quelli che amano come me il ciclismo. Io mi auguro fortemente invece che Chris Froome vada un pelino più piano e che quindi i suoi compagni di squadra non sono più interessati non tanto a tenere alto il ritmo ma ad aiutare Froome a non perdere il passo. Se invece Froome è un po' come il collegamento testa-gambe, testa, Froome e le gambe, la squadra saranno perfettamente in linea, allora noi assisteremo a una corsa, non è bello dirlo alla vigilia, però assisteremo a una corsa monotona dove andranno su in salita 30 all'ora e tutti diremo ah ma non c'è spettacolo perché c'è una squadra sovrumana. Se invece qualcosa non funzionerà, e questa è la mia grandissima speranza, sarà un giro bellissimo perché veramente non c'è un favorito d'obbligo, tanto Froome che ha grande esperienza. Se i francesi sperano in Roland Barthes, io credo fortemente in Fabio Aru. Ma Fabio Aru, tra l'altro, il CT Davide Cassani è molto fiducioso su Aru. Mentre vuoi parlare di Quintana, l'eterno perdente, Giovanni? Ma no, io Quintana prima o poi lo porta a casa. Visto che poi parliamo di moto e auto, tra l'altro si corre al Sachsenring domenica. È come Roberto Ungaro, è come Pedrosa, cioè l'eterno perdente, che tra l'altro Pedrosa al Sachsenring vince sempre storicamente, ma non... Pier, vuoi smentirmi? Ma guarda, parli con uno che ad oggi Nairo Quintana non riesce ad amarlo, proprio perché è un io non ho mai visto un corridore colombiano così britannico. Arrendevole, no, arrendevole. Così britannico. È uno che non mette cuore, ha delle buone gambe, ha tutto per essere un grande corridore perché comunque ha vinto un Giro d'Italia, comunque ha vinto un Giro di Spagna, ha fatto due podi al Tour de France, ha fatto podi anche quest'anno in un giro, però corse in maniera anonima, senza coraggio, senza piglio. Certo, poi ci sbalordirà tutti. Io non credo perché o cambia veramente mentalità e osa, perché comunque bisogna usare, come fece l'anno scorso ad esempio Chris Froome, che stilisticamente è un insulto al ciclismo, però l'anno scorso, devo dire, io mi sono ricreduto perché lui ha dimostrato di vincere il Tour de France non solo a cronometro, non solo in salita dove comunque non l'ha mai staccato nessuno, ma l'ha vinta addirittura in discesa in pianura e contro qualcosina aveva già fatto, no? Poi può stupirci in positivo, mentre Nairo Quintana, ok il giro, ok la vuelta, però e quest'anno l'ha dimostrato una volta ancora al giro l'eterno perdente. Pier, ci sentiamo a giro in corso, naturalmente. Certo, ci sentiamo a giro in corso. Più che volentieri. Allora, adesso ci fermiamo. Prima ti do una raffichetta di risposte. Vai. Di quelle che sono scritto sulla pagina Facebook di tutti i convocati. Allora, Alessandro Morosetti vuole sapere se ci sono notizie su Ibra alla Roma. No. Poi c'è chi ci dice che il problema di Donnarumma è che magari un'altra volta il treno del Real non torna, ma io non credo. Pasquale Sisto ci chiede se siamo sicuri che Mattia De Sciglio non sia scarso, un giocatore di basso profilo. La risposta per me è no. E poi c'è chi ci dice che stiamo facendo diventare Monchi il più grande direttore sportivo del mondo, ma cosa ha vinto? 3 Europa League col Siviglia. E poi chiudo con Enzo Levato che dice: Turrini presidente, noi sottoscriviamo, mandiamo il GR, Turrini è con noi fra 6 minuti. Subito dopo il GR con Roberto Ungaro. Siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Racing Team.

Attento, attento che scateniamo polemicone, poi arriva anche Davide Valsecchi. Scateniamo polemicone perché Capuano non la pensa così, non la pensa come te, non la pensa come Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che ho già scritto. Se... No, Zappelloni oggi ha scritto una scritta sulla Gazzetta, una cosa incredibile. Poi magari domenica lo chiamiamo e ne parliamo. Ci ha detto: Fette l'ha sbagliato, ma se dovesse essere squalificato lunedì nel processo sportivo, la Ferrari dovrebbe ritirare la squadra. Che Leo, non è leggera. No, allora. No, scusate un attimo, adesso io posso parlare oppure devo stare No, tu devi parlare. No, perché ne abbiamo già discusso lunedì con l'amico Carlo, eccetera. Qui nessuno sta negando che Vettel a Baku abbia commesso quello che calcisticamente viene chiamato il fallo di reazione. Viene anche sottovalutato, secondo me, il fatto che è già stato punito. Mm-hmm. Perché con quella sanzione, lo stop and go, gli che fatto gli perdere è costato la corsa. 31, bravo, perché poi con quello che era capitato sull'avventura di Hamilton, Vettel aveva il Gran Premio in tasca. Quindi, siccome io ho un'antica laurea in giurisprudenza, sapete, sì, lasciatemi scomodare, vero? Questi ricordi... No, non è neanche... È che la pena è già afflittiva. Gli hanno fatto perdere un Gran Premio e 13 punti la classifica mondiale, che è la differenza che c'è, sì, tra i venti. Però Leo, tu non hai l'impressione che, siccome lunedì l'hanno chiamato a Parigi, sì, e sicuramente non succederà nulla, però vogliono sottolineargli che a Baku gli è andata bene, cioè che gli è, in fondo è stato fortunato. Allora, qui fatemi dire un'ultima cosa, sì, poi mi taccio. No, anche che ti taccio, anche perché chiamiamo il giudice. Questo Hamilton qui sulla Pero Cormano veramente fa l'elastico, frena, accelera, è una cosa, si è creato una coda per causa sua interminabile. Allora, dopo l'episodio, siccome voi siete i più bravi in radio, lo sapete, eccetera, eccetera, si è scatenato un pandemonio su tutti i siti internazionali. La Mercedes tramite Lauda che ha chiesto che ci sia una sanzione esemplare, gli inglesi che sempre detestano la Ferrari, lo sappiamo tutti, insomma sono dai tempi del vecchio Drake, che insomma è una storia che dura da decenni, hanno esercitato e stanno esercitando una pressione fortissima sulla Federazione Internazionale perché riapre il caso, e questo almeno lo hanno ottenuto con la convocazione di lunedì. Adesso bisogna capire se prevarrà il buon senso, perché se uno dice lo chiamano, allora, o se invece si dovesse arrivare a un aggravamento della sanzione, che io francamente no, allora adesso chiamiamo il giudice, tra poco chiamiamo il giudice Valsecchi, chiamiamo il giudice e ne parliamo. Secondo me, ragazzi, fatemi fare un ragionamento politico. Non succederà niente a Parigi, anche perché una volta che c'è un mondiale aperto, Hamilton l'hanno già, cioè Vettel l'hanno già punito, gli hanno fatto perdere la corsa con una sanzione non da poco, quindi nessuno lo tornerà a punirlo, e a punire la Ferrari, a punire il mondiale, a punire i telespettatori, a punire tutto e tutto quanto. Ma adesso chiamiamo il giudice. Prima però noi palleggiamo, perché c'è il Sachsenring, Roberto, Free Practice 2. Purtroppo c'è l'acqua. La grossa sorpresa è che stamattina con l'asciutto la Ducati di Andrea Dovizioso davanti a tutti. E questa è una sorpresa perché la pista è stretta, lenta, è un toboga. Non è la pista Ducati, questa è una pista Honda. Marquez la fa da padrone, ha vinto 7 volte qui, quindi ci si aspetta da lui una grande gara. E invece Dovi è riuscito a mettere davanti le sue ruote. L'incognita era asfalto, Carlo, perché è stato riasfaltato il Sachsenring, quindi non si sapeva, e non hanno provato con la Michelin, non perché non c'è stato tempo e modo, ma perché per una legislazione di quel tracciato non sai che noi dei motori siamo un po' gli appestati, e quindi insomma non abbiamo possibilità vuoi riaprire la polemica anche tu con Turrini? No, per l'amor di Dio, anche tu vuoi aprire è che quando le piste come Monza, hai capito? Per i Verdi, Leo, per sentito, noi siamo gli Questo ungaro che io adoro, ciurla nel manico, mezz'ora che parla e non mi ha ancora detto come è andato Belen lì al Sacco. Allora, il tuo Iannone è dell'FP1. Io voglio che tu stia sulla notizia, se no ti iscrivo al famoso club Escape from the News. Attenzione, perché Leo è il presidente di questo club. Leo, il tuo Iannone ha messo le ali, ma non al tempo, alla moto, su Zucchi Aprilia si è presentata con le ali, ma Iannone ultimo, è anche caduto. capisci? Eh sì, nell'FP1 era ultimo. È un complotto. Tutti con lui perché esce con Belen la sera. Vergognatevi, ultimo. Ma tu pensi, cosa devo sentire? Hai capito? È solo il venerdì, Leo. Però, il venerdì. Quindi, gara molto interessante. Grande incognita al meteo perché l'acqua lì va e viene continuamente. Petrucci buono. Vince Pedrosa come al solito. No, anche Pedrosa è forte qui. Ma, teniamo d'occhio le onde. Vale, purtroppo, ha rotto la moto nell'FP1. È stato fermo 20 minuti. Ha rincorso alla fine decimo con quasi un secondo. E quindi è indietro. Deve recuperare. Conta sarà nulla. Una gara flag to flag. Quindi aspettiamocela perché è una gara così. E Valentino, che ha un telaio vecchio e un telaio nuovo, pensa quando farà il cambio, che prenderà una moto diversa dall'altra. Guarda Roberto, Roberto di Valentino Rossi non mi importa nulla fino a domenica. No, fino a domenica alle 14, cioè le prove ne guardo neanche. È vero, perché lui recupera Rossi dopo. Sì, teniamo d'occhio che Petrucci, che qui l'anno scorso fece la sua miglior qualifica quarto. Bellissima l'intervista, l'hai letta? Sì, ieri mattina ricevo un messaggio da Roberto Ungaro, guarda che bella intervista sulla Daniele Gazza. Petrucci sulla Gazza. Quello è lui, hai visto che anche li ha mandati a quel paese quando... Per chi non l'ha letta, cosa ti ha colpito? E la sua onestà, la sua sincerità, la vicinanza di suo fratello che l'ha fatto credere nelle sue possibilità. E quando gli hanno detto ma c'è chi dice che sa... lui dice ma andate a quel paese per cagare, esatto. L'ha detto e l'hanno scritto perché lui è così, è il manovale, non ha talento, non ha il talento di tanti altri, ma lui coriaceo, ha pestato duro, grande lavoro, non aveva la moto giusta, adesso ce l'ha e ha fatto vedere che può essere tra i grandi. Quindi aspettiamoci solo il miglior risultato, perché sul podio quest'anno ci è andato già tante volte e quindi buon per lui. Eh sì, e domenica scorsa era arrabbiato nero. Eh sì. Ecco il giudice Davide Vassecchi, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Abbiamo bisogno di un giudice tra Leo Turrini e qui presente Giovanni Capuano sulla questione che verrà giudicata lunedì a Parigi e non succederà nulla, io ho detto politicamente, perché non conviene a nessuno. Allora c'è Leo Turrini e la gran parte degli italiani, compreso il già citato vice direttore della Gazzetta dello Sport, che dice: se toccano di nuovo Vettel, la Ferrari si ritiri dal mondiale, ed è tantissima roba. Giovanni Capuano che invece dice fallo di reazione vale di più, no Giovanni, correggimi se sbaglio. Sì, o quantomeno il messaggio che a Baku, a Vettel in fondo è andata bene, Hamilton ha fatto il furbo, ha provocato, ha fatto l'elastico, ha perfettamente ragione Leo, però noi ne parliamo già da domenica pomeriggio subito dopo la gara. Guardate che il fallo di reazione di Vettel, oltre a tradire dei nervi che evidentemente sono più tesi di quanto pensassimo, è stato grave. È stato grave e ha rischiato. Non fosse stato Vettel sulla Ferrari, ma fosse stato un Grosjean qualsiasi, secondo me a Baku non avrebbe finito la gara. Ragazzi, io sono d'accordo che il fallo di reazione è stato gravissimo, ma perché da pilota, io quando sono in testa prima della safety car, sinceramente l'elastico lo faccio. Uno, per tentare di far perdere riferimenti a quello che mi segue. Due, per dargli anche un po' di fastidio psicologico prima della ripartenza. Perciò, fossi stato nei piloti, io avrei usato lo stesso atteggiamento che ha usato Hamilton. Detto questo, Vettel ha reagito, è stato punito, basta. Non capisco come mai l'hanno rimesso sotto investigazione dopo che il weekend è finito. Davide, te lo spiega il decano e presidente di questo club, Leo Turrini, perché? No, beh, Valsecchi è un ragazzo di una cultura straordinaria, ha appena fatto un intervento che mi riconcilia con la vita. dopo aver sentito che Iatone è ultimo, che Belen non può più entrare al Bosch e Suzuki, che Capuano arriva e sembra che Vettel abbia asfaltato sua nonna e fatto anche marci indietro, che insomma è stata una cosa spiacevole, ma è stata fatta a 30 all'ora. E poi voglio dire un'altra cosa, io lo sanno tutti, sono un grandissimo estimatore del pilota Hamilton, però se andate a prendere la sua carriera, su questo Valsecchi vi potrà essere di aiuto, Hamilton ne ha fatte di cotte, di crude, e non è mai stato sanzionato dai commissari della FIA. Nel 2009 raccontò in Australia una bugia clamorosa a danno di Trulli e gliela fecero passare con una tiratina d'orecchie. 3 anni fa, mi pare, o 4, con la Mercedes, fece un test proibitissimo di gomme, 1000 chilometri, e lui scrisse su Twitter, perché questo quando non guida sta sempre sui social, che era in barca al mare con Rihanna, non so chi, e invece era là che faceva i test, e poi potrei andare avanti. Cioè, io non voglio giustificare Vettel il fallo di reazione che c'è stato, appunto, è stato punito e così via. Ma dato che prima appunto Valsecchi, mio salvatore, parlava di piloti, ecco, mettetevi nei panni degli altri piloti che vedono che questo qui sembra godere di uno status che lo rende intoccabile qualunque cosa faccia. E poi c'è un discorso di lealtà sportiva, che sta bene quello che è davanti, gliel'ha detto prima Valsecchi, fa le lacce come quello che vuole, però dovrebbero anche essere appunto eticamente ineccepibili quelli che fanno un certo mestiere. Cioè, queste sono, no, beh, aspetta, voglio dire, no, delle carognate, no, del compagnuccio della parrocchietta, ha detto che un'altra... non ti sapeva copiare il compito, ragazzi, in classe. Ma se... io voglio dire queste cose e le continuerò a dire. Ma se il difensore centrale tira la maglietta dell'attaccante prima di un calcio d'angolo, è eticamente scorretto? No, è un provocatore. Non mi fa iscrivere al gruppo anti-Vettel, che io sono un tifoso di Vettel, dai. L'hai detto sì, ho capito, è lo sport. È aspetta, lo sport. Davide Valsecchi ha detto: io in testa alla gara avrei fatto quello che ha fatto Hamilton. È un pilota, è un pilota. Sì, per l'amor di Dio, non sto contestando l'opinione del mio nome tutelare Davide Valsecchi. Sto dicendo che basta che non mi veniate a raccontare che è un bel gesto, così no, come ma l'ho non detto è bello. Lunedì. Scusate, l'ho detto anche lunedì, voglio tornare a dirlo, a questa meravigliosa trasmissione che è un po' come l'Apollo 11, Neil Armstrong che arrivò sulla Luna, voi siete veramente quelli che hanno scoperto nuovi orizzonti delle esplorazioni radiofoniche, eccetera. Ma secondo voi, ma uno, sto parlando di Hamilton, che quando nella fase finale della corsa alle spalle di Vettel chiede via radio al suo box di frenare Bottas in modo tale che Vettel gli arrivi sotto e sia rallentato, così lui potrà tentare un sorpasso. Ma uno del genere vi sembra che sia una figura modello, un esempio? Allora, uno che dobbiamo anche togliere dei punti a Vettel, mi arrendo, per premiarlo. Mi arrendo e faccio rispondere a Valsecchi. Mi arrendo. Alzo le mani, lo possono vedere anche gli ascoltatori su Facebook. Alzo le mani. Davide, rispondi tu a Torrini. Su questo ha ragione Leo, nel senso, quanto è bella la Formula 1 in questo momento. Disperati per la vittoria, cioè Hamilton in quel momento, disperato perché una gara che avrebbe dovuto vincere per forse un errore meccanico dei box che non gli hanno fissato il poggia testa, se la vede perdere, lui cosa fa? Antisportività totale, chiede al team di far sì che il suo compagno di squadra lo aiuti, nel senso, disperati per la vittoria. È bellissimo vedere come i campionissimi, quando le cose non gli girano nel modo per loro migliore, sotto pressione, con un sacco di tensione, fanno questi errori clamorosi. Secondo me dice anche che nessuno dei due è convinto di essere superiore all'altro quest'anno, né Vettel, no, né vero. Hamilton. Vero, nessuno, vero. Perché Hamilton ha un talento incredibile sulla velocità, sul giro secco. Vettel ha un talento incredibile nella costanza e nel diventare formidabile quando ha la macchina vincente, nel senso, nessuno sa scegliere chi è il pilota migliore, ed è per questo che è bello. Volevo solo sottolinearvi come la vedo bene per la Ferrari quest'anno, perché ti dico che arriva bene, conscio del fatto che il pilota, reagendo e andando addosso a Hamilton, ha perso la gara, perché quella gara lì era vinta dalla Ferrari, arriva in TV e con una faccia tostissima dice siamo al Colosseo, cioè lui ha difeso spada tratta Vettel, e per un pilota quando sbagli avere l'appoggio incondizionato della squadra, non so, ma io ho la sensazione che ti dà un qualcosina in più, perciò la Ferrari ha difeso spada tratta Vettel, anche se sapevano secondo me che Vettel era nel torto, e secondo me questo può essere un plus, perché il pilota così si sente protetto. Allora, grazie Davide, grazie. Grazie a voi. Grazie Davide Valsecchi. Leo, tanto torniamo a parlarne in settimana. Sì, di ma io cosa. Vorrei dire che qui stiamo assistendo alla riedizione a 300 all'ora di un capolavoro di Quentin Tarantino, il titolo è Bastardi senza gloria. Ecco, questo. Credo che fotografi perfettamente grazie. Il presente della Formula 1 che ci sta però grazie diciamo, presidente divertendo. Devo chiudere a presto a presto a seduta di Capuano siamo cosa sono preoccupato allora ragazzi fatemi dire tre secondi da Roberto sai che la donna al nuovo regolamento i piloti di moto mondiale possono vedere sul cruscotto le informazioni io questo mi fa veramente siamo sempre più vicini alla Formula 1 io spero che di non diventare chi vince domenica Roby? Marquez ragazzi o vince o cade secondo me lì dentro la seconda che hai detto dai. Poi speriamo. Dietro vorrei vedere magari una Yamaha e chi, anche Dovizioso può giocarsela vale certo ne parliamo domenica no Giovanni certo domani domenica ne parliamo anzi domenica apriamo con la MotoGP e con la questione Ferrari perché saremo alla vigilia di questo meraviglioso scontro a Parigi pure. Tra due civiltà e quindi ne parleremo magari proprio con Umberto Zappelloni. E poi via, tutto il resto, il calcio, il Giro di Francia, le vacanze. Ciao ragazzi, domani non ci sentiamo, ma domenica sì. Grazie ciao. A Roberto Ungaro, Racing Team, la voce delle moto mondiale non solo. Con Giovanni Capuano ci vediamo domenica. Edoardo Lavezzari ci vediamo lunedì, Paolo Corleone ci vediamo prima o poi. Ciao a tutti, buon fine settimana. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti.